rassegna stampa Europa. Buongiorno, ancora buongiorno, buon sabato, ancora buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo appunto dai giornali italiani dove eravamo, passiamo ai giornali europei e comunque alle questioni europee, magari trattate anche dai giornali italiani, come vedremo. E cominciamo, naturalmente, come potete immaginare, la questione principale è quella della migrazione, ma ce ne sono anche tante altre sul tavolo. E allora torniamo un attimo in Grecia, di cui abbiamo parlato tanto in luglio e agosto, per queste elezioni anticipate. Allora vi segnalo questa vignetta uscita sul quotidiano Katimerini in Grecia, e ve la segnalo grazie, come ricordo sempre, all'aiuto di voxeurope.eu, questo sito che una volta si chiamava presseurope.eu, adesso ha cambiato dominio, e che fa un'operazione proprio di monitoraggio della stampa europea, oltre ad avere proprio un collettivo suo di giornalisti che pubblica anche contenuti originali. E quindi questa vignetta che vede Tsipras su una piccola isoletta su cui sventola la bandiera personale politico, e il titolo è appunto urne a mare, perché da questa isoletta getta le urne nel grande mare, probabilmente anche dell'incertezza. Il riferimento naturalmente è quello alle elezioni anticipate fissate per il 20 settembre dopo le dimissioni del governo Tsipras. La vignetta è di Panos Maragos, un vignettista greco. Un'altra mappa molto interessante, un'altra visualizzazione grafica di un fenomeno, come spesso viene fatto da Vox Europe, questa settimana ce n'è una che ci dà un'idea di come sia cambiata la popolazione europea nell'ultimo quindicennio. È una mappa che mostra come per ciascun comune di 43 paesi europei siano aumentati, calati o siano rimasti stabili gli abitanti. E così si scopre che le regioni d'Europa dove la popolazione è cresciuta di più sono le isole britanniche, la Francia e la Spagna mediterranea, mentre quella dove è diminuita di più sono i Balcani, la parte nord-occidentale della penisola iberica e buona parte dei paesi affacciati sul Baltico. Quindi all'interno di uno stesso dato viene l'andamento demografico, è spesso diverso a seconda delle varie zone. Anche qui una visualizzazione in un attimo ci dà l'idea, anche perché ci sono tre colori diversi, quindi si può anche solo col colore avere un'idea di appunto i paesi dove che sono diventati più popolosi e quelli che invece si sono spopolati. Il Guardian è tornato sulla questione dell'ambiente e il contrasto che spesso c'è tra le grandi compagnie petrolifere, in questo caso si parla di BP, British Petroleum, e l'Unione Europea, o comunque quando si tratta di norme ambientali o comunque le associazioni ambientaliste. E allora Arthur Neslen sul Guardian ci racconta come, secondo la sua inchiesta, British Petroleum, BP appunto, ha sabotato il sostegno dell'Unione Europea alle fonti rinnovabili. Insieme ad altre industrie del settore, secondo il giornalista del Guardian, il gigante britannico degli idrocarburi ha ottenuto che l'Unione Europea riduca gli obiettivi e gli incentivi in materia di energie pulite, favorendo invece il metano. Questa dell'influenza che possono avere grandi aziende come British Petroleum, ma anche Shell, Total o altre, sulle decisioni, attraverso le lobby, le cosiddette lobby, sulle decisioni dell'Unione Europea, ma anche dei singoli governi, in questo caso in materia ambientale, è un tema sicuramente di cui si è discusso molto e di cui è giusto continuare a discutere. Il Guardian ripercorre un po' tutte queste sollecitazioni che le grandi aziende hanno fatto a Bruxelles, per esempio ricordando che nell'ottobre 2011 la multinazionale olandese del gas e del petrolio Shell ha proposto l'adozione di un obiettivo unico in materia di riduzione dei gas serra che andasse a sostituire le politiche di sostegno alle energie rinnovabili. Secondo la Shell, con l'impiego del metano si sarebbero ridotte le emissioni degli impianti alimentati a carbone, adottando come leva politica il sistema europeo di scambio di quote di emissioni. Ma il Guardian ricorda che dopo 4 settimane anche la BP, la British Petroleum, ha chiesto al Presidente della Commissione Europea dell'epoca, che era il portoghese José Manuel Barroso, di discutere un'idea simile con Jean-François Sirelli, Presidente dell'Associazione dell'Industria del Gas Eurogas. Passiamo a un altro argomento, anche se sicuramente su questo torneremo, poi spesso i grandi giornali britannici, europei tornano e quindi ci danno l'occasione per tornare a nostra volta su questa difficile relazione, anche un po' oscura perché non sempre sotto i riflettori, tra le lobby e chi appunto fa le leggi, in questo caso la Commissione Europea, l'Unione Europea. Torniamo invece sui migranti, e qui un articolo del quotidiano Adevarul: il mega progetto di Ankara divide i rumeni. La costruzione a Bucarest, scrive il quotidiano, della più grande, scusatemi, questo non riguarda il muro, della costruzione del muro, ma la costruzione di una grande moschea a Bucarest, che però è legato anche al fatto che anche appunto a Bucarest ci sono sempre più musulmani, quindi è un tema religioso legato però all'immigrazione, quindi visto dal punto di vista, per esempio, del muro, di cui leggiamo tutto anche sui quotidiani in questi giorni, ma da un punto di vista leggermente diverso. E allora appunto si legge su questo quotidiano: la costruzione a Bucarest della più grande moschea d'Europa divide l'opinione pubblica rumena da quando lo scorso aprile il primo ministro Victor Ponta ha firmato con Ankara un accordo in proposito che suggella un partenariato avviato nel 2004, allorché il patriarcato ortodosso rumeno ricevette un terreno a Istanbul in cambio degli 11.000 metri quadrati su cui deve sorgere la moschea di Bucarest. Lo scambio non dovrebbe prestarsi a polemiche, se non fosse che, come notano alcuni, la comunità musulmana di Romania, su circa 20 milioni di abitanti, conta appena 70.000 fedeli, per lo più di origine turca e tatara, i quali vivono sulla costa. Quindi intellettuali, teologi e una parte dell'opinione pubblica rumena si interrogano sulla bontà del progetto e sulla sua reale necessità. Sul tema dell'immigrazione, invece, proprio vi segnalo, ed è stato ripreso anche da molta stampa estera, un articolo di Beda Romano apparso sul Sole 24 Ore che spiega come la Commissione europea abbia accusato il governo italiano, cioè il nostro, di non identificare come dovrebbe gli immigrati irregolari. È una questione di cui abbiamo già parlato, la Germania ci ha già ripetutamente detto: se volete, sostanzialmente, se volete vi mandiamo anche noi delle persone per insegnarvi come facciamo noi a identificarli, perché le regole della Convenzione di Dublino impongono, questo lo abbiamo sentito ripetere spesso, al paese di primo sbarco, cioè in questo caso l'Italia, di identificare l'immigrato clandestino prendendone le impronte digitali e inviandole a una banca dati europea. Ma con una lettera la Commissione europea ha appunto contestato al governo italiano di non rispettare gli impegni. E, cioè, scriveva Beda Romano sul Sole, Bruxelles ha notato che nei primi 7 mesi dell'anno circa 92.000 persone hanno attraversato illegalmente le frontiere esterne dell'Unione controllate dall'Italia, e di queste solo 29.881 sono state identificate. E passiamo a questioni un pochino più economiche, anche se naturalmente la questione degli immigrati, come abbiamo visto, ha delle potenziali influenze demografiche e poi naturalmente ha moltissimi effetti economici e oneri economici, ma comunque una questione prettamente economica risollevata sulla Süddeutsche Zeitung dall'economista francese Emmanuel Macron, che ha dato un'intervista a questo quotidiano tedesco spiegando che, secondo lui, ribadendo un concetto che tra l'altro è stato già avanzato da altri economisti, che serve un vero governo economico per l'eurozona dotato di un proprio budget. Secondo Macron, nel caso in cui gli stati membri fossero, come fino a questo momento, contrari a qualsiasi forma di trasferimento finanziario nell'unione monetaria, l'euro dovremmo scordarcelo. Vi segnalo anche, sempre sui quotidiani europei di questa settimana, in particolare su quelli francesi, che sono stati un po' un'eccezione, perché mentre quelli italiani hanno quasi tutti pubblicato, alcuni anche in prima pagina, la foto del piccolo Aylan, il bambino siriano trovato morto perché annegato sulle coste della Turchia, su una spiaggia della Turchia, che poi adesso è stato sepolto in Siria, i giornali francesi non l'hanno pubblicata. E allora appunto alcuni poi hanno fatto anche un mea culpa, però c'è questo dato di fatto, c'è una foto che ha fatto il giro del pianeta e dei quotidiani, delle prime pagine della maggior parte dei quotidiani del mondo. In Francia praticamente non è stata pubblicata, molto di più ha girato su internet naturalmente, ma non sulla carta. Un'ultimissima segnalazione su questo tema dal Financial Times, che ha duramente criticato l'approccio di Cameron, di cui parlavamo anche all'inizio della rassegna stampa italiana. Il premier Cameron aveva fatto dei proclami molto duri, dicendo che la Gran Bretagna si sarebbe sempre più chiusa alle quote sull'immigrazione, poi ha cambiato un po' rotta e Financial Times tra l'altro lo aveva molto criticato, facendo un confronto con l'atteggiamento di altri leader europei, Unione Europea, di cui il Regno Unito fa ancora parte. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ci ritroviamo domani per la rassegna stampa dei quotidiani. Ancora buon sabato da Giulia Crivelli e un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.